studio legale Hughes & Hughes, seconda versione, alternativa, anche questa, Hughes & Hughes, la storia del serpente e del coniglio, la barzelletta, la mettiamo lì, così allora c'è il coniglio e il serpente, si incontrano, la notte buia, oscura, e così non si possono riconoscere, punto. Un coniglio e un serpente cadono in un buco profondo. È una notte oscura e così i due malcapitati non possono riconoscersi. Il serpente sente la pelliccia soffice e le lunghe orecchie del suo vicino. Esclama: «Ah, e così sei un coniglio! Che meraviglia!» E ora è il turno del coniglio. Sente la pelle vischiosa e la lingua biforcuta del serpente. E saltando per aria esclama: «Oddio! Sei un avvocato!» Hughes & Hughes! L'altro studio legale in Ticino. Studio Hughes.ch